passato anche il 25 aprile ed è sempre più vicino il momento in cui ci troveremo sul gobbo un governo con tre o quattro bei ministroni di alleanza nazionale, come a dire del movimento sociale, come a dire fascisti. E la cosa, non fosse altro che per motivi di immagine, comincia a innervosire un tantino anche chi di antifascismo non si è mai preoccupato più di tanto. L'Italia notoriamente è un paese a memoria piuttosto corta, in cui nessuno tutto sommato ha da temere l'ombra del proprio passato, a patto che faccia appena appena lo sforzo di negarlo, perché in sostanza pochissimo si bada alle opzioni ideologiche di fondo e al massimo ci si preoccupa un po' delle apparenze. Tanto è vero che nella nostra vita politica è rilevabile una percentuale di riciclati nettamente superiore alla media europea, con la sola possibile eccezione dell'ex Unione Sovietica. Ma il problema dei nostri neofascisti è appunto quello che finora, per un motivo o per l'altro, si sono riciclati pochino. Per ogni fine che azzarda con tutta la malafede che trapeva da quel suo sguardo furbetto una timida mossa in quel senso, c'è sempre qualche imbecille che scrive nero su bianco di volere l'Istria e la Dalmazia e qualche e qualche volgare attricetta fallita, giunta in Parlamento per puri motivi di cognome e dotata della lungimiranza politica molto inferiore a quella della rimpianta Ivona Stadler, che si permette di intervenire in diretta per rimproverare il povero Occhetto, che dando prova una volta tanto di solida capacità di giudizio ha dato del mascalzone a suo nonno. E d'altronde, quando si tratta del nonno di quella nipote, anche il post-fascista Fini non riesce a non definirlo il massimo statista del secolo, trascurando la considerazione, forse brutale ma la parisiana, che molto di rado gli statisti davvero grandi finiscono appesi a testa in giù ai distributori della benzina. Episodi del genere rischiano di diventare piuttosto imbarazzanti, anche perché si è già visto che almeno in Europa non tutti sono disposti ad accogliere col dovuto giubilo il ritorno al governo delle ex camicie nere. Croati e sloveni hanno le loro gatte da pelare, certo, ma a Londra si è già svolta una manifestazione davanti all'ambasciata d'Italia. In Francia nessuno si perita di parlare di pericolo fascista. I greci, il cui ricordo dell'aggressione fascista al loro paese e della successiva occupazione italiana è molto meno idilliaco di quanto suppongono i deficienti che passano 15 giorni d'estate sulle loro isole, gridano come aquile. Persino i tedeschi per una volta tanto si sono rivelati più smemorati di noi. È vero che il buon Bossi ha detto che lui va al governo per difendere la democrazia e che al minimo rigurgito fascista se la vedranno con lui, ma Bossi all'estero è poco noto. E anche in Italia ormai ne ha dette tante che a credergli ci vuole tutta la buona volontà, ai limiti della dabbenaggine. In casi come questi i formalisti sentono il bisogno di qualche garanzia di tipo appunto formale. Forse per questo, nell'opinione pubblica, diciamo così, moderata, quella che avrebbe preferito un governo un po' più attestato al ceto, ma che con il Berlusconi è più che disposto a venire a patti, comincia a serpeggiare la richiesta o l'augurio, il voto, che Fini faccia qualche passo un po' significativo sulla via del riciclaggio. Il direttore del Corriere della Sera, che è un personaggio da tenere sempre d'occhio in queste circostanze, ha scritto un editoriale molto antifascista sul suo quotidiano all'indomani del 25 aprile e lo ha concluso deplorando che Fini abbia lasciato passare quel giorno senza compiere, virgolette, un gesto clamoroso di rottura con il passato. Lo stesso augurio, mutatis mutandis, è stato espresso in sede di Parlamento europeo, i cui capigruppo, stando a un comunicato diffuso non ricordo esattamente quando, hanno manifestato una certa preoccupazione all'idea che in Italia vada al governo un partito neofascista, virgolette, senza aver compiuto gesti espliciti di rottura con il passato, punto, chiuse. E corre voce che la speranza di vedere o magari di provocare qualcosa del genere alligni per quel che vale anche sotto la fronte alla bastrina del nostro Presidente della Repubblica. Ecco, l'Italia, si sa, non è soltanto il paese della memoria corta e dei riciclati politici. E anche da secoli, forse per motivi di storia religiosa, è da secoli il paese della biura. E attraverso la biura la classe dirigente italiana si è spesso illusa di sfuggire ai pericoli che di volta in volta la minacciavano, fossero rappresentati dalla ricerca scientifica o dall'offensiva del partito armato. E personalmente sono abbastanza sicuro che il Turpe Fini, che oramai, pur senza minimamente desiderarlo, ha imparato a conoscere, a qualche forma da biura finirà per divenire anche lui, tanto più che da noi notoriamente ammessa la prassi di abbiurare strozzando l'occhio e borbottando che qualsiasi cosa si sia fermata al posto della Terra che sta ferma nel mezzo dell'universo, in definitiva la Terra si muove. Vedrete che anche lui Fini, presto o tardi farà il bel gesto di rompere col proprio passato, guissando sul nonno della nipote e facendo notare che su Visto e sulla Dalmazia il problema, come sempre, non è quello. Magari dirà che si è già spinto fin troppo, come quando è andato a insozzare con la sua presenza le fosse ardiatine, ma confermerà il concetto e tutti potranno tirare un bel sospiro di sollievo. Noi certamente no. Non soltanto perché sappiamo che il neofascismo è altrettanto pericoloso per quello che rappresenta oggi che per quello che rappresentava ieri, e che il fatto che i suoi orridi rappresentanti siedano nelle istituzioni democratiche e accettino formalmente le regole del gioco non vuole dire proprio niente, perché ormai sono quasi due secoli che la maestra ha insegnato ai reazionari di tutte le risme che bisogna chiedere la libertà in base al principio dell'avversario per poi negargliela in base ai propri. Il fatto è che sappiamo tutti benissimo che con il passato non si può rompere mai, non più di quanto si possa rompere con noi stessi, che del nostro passato siamo notoriamente figli, che da esso deriviamo tutte le nostre caratteristiche, nessuna esclusa. Possiamo abbiurare il passato, certo, possiamo tradirlo, ma ci restiamo sempre inesorabilmente attaccati, è il nostro terribile privilegio di figli del tempo e della memoria. Ciò non significa che si debba restare legati a vita alle scelte magari sbagliate che abbiamo compiuto in passato. Tutti possono sbagliare e tutti ovviamente possono riconoscere di aver sbagliato. Non è neanche una biura se è fatta in buona fede, per onestà intellettuale, non nella prospettiva di ricevere un premio o di scampare una pena. Ma dichiarare di aver sbagliato naturalmente non è un titolo per andare al governo. E rompere con il proprio passato, può definirlo superato, non fa differenza, senza ammettere di avere sbagliato, ma rivendicandone anzi l'eccellenza e la legittimità, non solo è una contraddizione sul piano logico, ma è una pretesa che da sola rivela tutta l'arroganza e tutta la prepotenza di chi è autenticamente fascista, come l'onorevole Fini, appunto.